Capitolo 171. Il ritorno di Odisseo. Odisseo, quando si destò, non riconobbe subito la sua isola che Atena aveva avvolto in una nebbia leggera. Atena stessa si presentò a lui in veste di pastorello e ascoltò il lungo e mendace racconto che Odisseo le fece, e gli disse infatti di essere cretese, fuggito a bordo di una nave sidonia dopo aver ucciso il figlio di Idomeneo, e abbandonato su quella spiaggia contro la sua volontà. «Che isola è mai questa?» chiese. Atena rise e gli accarezzò la guancia. «Sei davvero un meraviglioso bugiardo», replicò. «Se già non conoscessi la verità, ti avrei creduto. Ciò che mi sorprende, tuttavia, è che tu non mi abbia riconosciuto. Io sono Atena. I Feaci ti sbarcarono qui per mio ordine. Mi spiace che tanti anni siano trascorsi prima che io potessi ricondurti a casa, ma non osavo offendere mio zio Posidone aiutandoti in modo troppo palese. La dea consigliò a Odisseo di celare in una grotta i bacili, tripodi, i manti purpurei e i nappi d'oro donatigli dai Feaci, e gli fece subire una metamorfosi tale da renderlo irriconoscibile. Gli sbiancò la pelle, gli incanutì i capelli, lo rivestì di luridi stracci e lo guidò verso la capanna di Eumeo, il fedele porcaro. Atena era appena giunta da Sparta, dove Telemaco si era recato per chiedere notizie di Odisseo a Menelao, da poco tornato dall'Egitto. Ora bisogna spiegare che, convinti della morte di Odisseo, non meno di 120 insolenti principi delle isole che facevano parte del regno, Dulichio, Samo, Zacinto e Itaca stessa, corteggiavano sua moglie Penelope e ciascuno di essi sperava di sposarla per impossessarsi del trono. Codesti principi si erano accordati tra loro per uccidere Telemaco al suo ritorno da Sparta. Quando chiesero a Penelope di scegliersi per marito uno di loro, essa dapprima dichiarò che Odisseo era certamente vivo, poiché il suo ritorno in patria era stato predetto da un oracolo di tutta fiducia. In seguito, per arginare l'insistenza sempre crescente dei pretendenti, promise di prendere una decisione soltanto quando avesse terminato di tessere una certa tela per il vecchio Laerte, suo suocero. Ma passarono 3 anni prima che il lavoro fosse completato, perché Penelope disfaceva di notte ciò che aveva fatto durante il giorno. Alla fine i pretendenti scoprirono l'inganno e nel frattempo si erano accampati nel palazzo di Odisseo, bevendo il suo vino, sgozzando i suoi porci e i suoi vitelli e seducendo le sue ancelle. Odisseo, accolto ospitalmente da Eumeo, raccontò al vecchio un'altra storia falsa, pur giurando solennemente che Odisseo era vivo e sulla via del ritorno. Frattanto Telemaco sbarcò inaspettato, eludendo così il complotto dei pretendenti, e si recò subito alla capanna di Eumeo. Atena l'aveva fatto ripartire in gran fretta da Sparta. Odisseo tuttavia non rivelò la sua identità finché Atena non gliene diede il permesso, restituendogli magicamente il primitivo aspetto. Eumeo però non fu messo a parte del segreto e Telemaco ebbe l'ordine di non rivelare nulla a Penelope. Travestito nuovamente da mendicante, Odisseo si recò a palazzo per osservare come si comportassero i pretendenti. Strada facendo incontrò il capraro Melanteo, che lo ingiuriò oscenamente e gli sferrò un calcio nelle natiche. Tuttavia Odisseo frenò la collera e non si vendicò subito come avrebbe voluto. Quando raggiunse il cortile del palazzo trovò il vecchio Argo, un tempo famoso cane da caccia, sdraiato su un mucchio di sterco magro, rognoso, decrepito e tormentato dalle mosche. Argo agitò debolmente il mozzicone di coda e drizzò le orecchie riconoscendo il padrone, e Odisseo si asciugò segretamente una lacrima quando Argo spirò. Eumeo guidò Odisseo nella sala dei banchetti, dove Telemaco, fingendo di non sapere chi fosse quel mendicante, gli offrì ospitalità. Apparve allora Atena, invisibile a tutti fuorché a Odisseo, e gli suggerì di aggirarsi tra i tavoli mendicando cibo dai convitati, per rendersi così conto di che razza d'uomini fossero. Odisseo obbedì e si accorse che i pretendenti erano tanto avari quanto avidi. Il più svergognato dell'intera compagnia, Antino di Itaca, cui Odisseo narrò una terza versione delle sue avventure, gli scagliò addosso irosamente uno sgabello. Odisseo, massaggiandosi la spalla dolorante, fece appello agli altri convitati, i quali convennero che Antino avrebbe potuto mostrarsi più cortese. Penelope, quando le ancelle le riferirono dell'incidente, ne rimase scandalizzata e mandò a chiamare il finto mendicante, sperando che egli potesse darle notizie di suo marito. Odisseo promise di recarsi nelle sue stanze quella sera stessa e di rivelarle tutto ciò che essa desiderava sapere. Frattanto, uno zotico accattone di Itaca, soprannominato Iro, perché a somiglianza della dea Iride si incaricava di portare messaggi a questi e a quelli, cercò di scacciare Odisseo dal portico, e poiché Odisseo non si mosse, Iro lo sfidò a una gara di pugilato, mentre Antino, ridendo di cuore, propose di offrire al vincitore ventrigli di capra avanzati dalla cena e un posto tra i commensali. Odisseo allora si arrotolò i cenci attorno ai lombi e si preparò ad affrontare Iro. Costui arretrò al vedere i poderosi muscoli dell'avversario, ma i dileggi dei pretendenti gli impedirono di darsi alla fuga. Odisseo lo abbatté con un solo colpo, badando però di stordirlo soltanto e non di ucciderlo, per non destare sospetti con un'impresa tanto clamorosa. I pretendenti applaudirono, ingiuriarono il vinto, litigarono tra di loro, sedettero di nuovo a mensa per il banchetto pomeridiano. Fecero un brindisi a Penelope, che era scesa nella sala per accettare i doni nuziali offerti dai principi, benché non avesse alcuna intenzione di fare la sua scelta, e al cader della notte si ritirarono nei loro alloggi. Odisseo disse a Telemaco di riporre nell'armeria tutte le lance che stavano appese alle pareti della sala dei banchetti, mentre egli si recava a visitare Penelope. La regina non riconobbe il marito e Odisseo intessé un mendace racconto del suo viaggio, dicendo di aver incontrato di recente Odisseo, il quale si recava a consultare l'oracolo di Zeus a Dodona, ma presto sarebbe tornato a Itaca. Penelope lo ascoltò attentamente e ordinò a Euriclea, la vecchia nutrice di Odisseo, di lavargli i piedi. Ed ecco che Euriclea riconobbe la ferita nella coscia di Odisseo e lanciò un grido di sorpresa e di gioia, ma Odisseo, presa la vecchia per la gola, la supplicò di tacere. Penelope non notò l'incidente perché Atena aveva distratto la sua attenzione. Il giorno seguente, nel corso di un altro banchetto, Agelao di Samo, uno dei pretendenti, chiese a Telemaco se non potesse indurre sua madre a prendere una decisione, a che Penelope si dichiarò pronta ad accettare come marito chi sapesse emulare Odisseo in una gara di tiro all'arco. Si trattava di scagliare una freccia negli anelli di 12 asce disposte in fila. Penelope mostrò loro l'arco che dovevano usare, donato da Ifito a Odisseo 25 anni prima, quando egli si era recato a protestare a Messene per il furto di 300 pecore compiuto a Itaca dai Messeni. Quell'arco era appartenuto un tempo a Eurito, padre di Ifito, che Apollo stesso istruì nell'arte di scoccare frecce, ma che fu poi vinto e ucciso da Eracle. Taluni dei pretendenti vollero saggiarne la potenza, ma non riuscirono neppure a tenderlo, pur avendone ammorbidito il legno con della sugna. Si decise dunque di rimandare la prova al giorno seguente. Telemaco, che era quasi riuscito a tendere l'arco, lo depose di nuovo, vedendo Odisseo corrugare la fronte. Odisseo, allora, nonostante le proteste e gli insulti dei pretendenti, così volgari che Telemaco fu costretto a ordinare a Penelope di ritornare nelle sue stanze, si impadronì dell'arco e lo tese senza sforzo, facendone vibrare melodiosamente la corda. Poi, presa accuratamente la mira, scoccò una freccia nei 12 anelli delle asce. Frattanto Telemaco, che era uscito in gran fretta dalla sala, rientrò armato di spada e di lancia e Odisseo si rivelò infine scoccando una seconda freccia che si conficcò nella gola di Antinoo. I pretendenti balzarono in piedi e corsero verso le pareti per staccare le armi, ma si accorsero troppo tardi che le armi non c'erano più. Eurimaco invocò pietà, e quando Odisseo rifiutò di concedergli la vita, strinse la spada e si lanciò contro di lui. Ma una freccia gli trapassò il fegato ed egli cadde a terra rantolante. Un'aspra lotta divampò allora tra i pretendenti armati di spade e Odisseo, armato soltanto dell'arco, ma piazzato dinanzi all'ingresso principale della sala. Telemaco corse di nuovo all'armeria e ne riportò scudi, elmi e lance per il padre suo e per Eumeo e Filezio, i due servi fedeli che lo spalleggiavano. Infatti, benché Odisseo avesse abbattuto i suoi avversari a dozzine, la sua scorta di frecce era quasi esaurita. Melanteo, che era sgattaiolato nell'armeria da una porta secondaria per portare armi ai pretendenti, fu colto sul fatto al secondo tentativo e legato con solide corde. La strage frattanto continuava e Atene, in veste di rondine, svolazzò nella sala finché tutti i pretendenti giacquero morti, all'infuori di Medonte, l'Araldo e di Femio, l'Aedo. Odisseo li risparmiò perché non gli avevano fatto direttamente alcun torto e le loro persone erano sacre. Si fermò poi per chiedere a Euriclea, che aveva chiuso le donne nelle loro stanze, quante ancelle erano rimaste fedeli alla sua causa, ed Euriclea rispose: 12 soltanto si sono coperte di vergogna. Le ancelle colpevoli ricevettero l'ordine di lavare con spugne e acqua il pavimento della sala insozzato di sangue. Poi Odisseo le impiccò tutte in fila. Scalciarono un poco e tutto finì. Eumeo e Filezio mutilarono Melanteo delle sue estremità, naso, orecchie, mani, piedi e genitali, che furono gettate in pasto ai cani. Odisseo, riunitosi finalmente alla moglie Penelope e al padre Laerte, raccontò loro le sue avventure, ma questa volta rispettò la verità. Si avvicinò frattanto un gruppo di itacensi ribelli, parenti di Antino e degli altri pretendenti. Vedendo che Odisseo doveva affrontare un numero preponderante di avversari, il vecchio Laerte prese validamente parte alla lotta e questa stava volgendo in favore di Odisseo allorché Atena intervenne e propose una tregua. I ribelli allora intentarono un'azione legale contro Odisseo, nominando loro giudice Neottolemo, re delle isole e Pirotidi. Odisseo acconsentì ad accettare il verdetto e Neottolemo stabilì che egli lasciasse l'isola per altri 10 anni, durante i quali gli eredi dei pretendenti avrebbero dovuto versare a Telemaco, ora re, un adeguato compenso per i danni subiti. Rimaneva tuttavia Posidone che bisognava placare, e Odisseo partì a piedi, seguendo le istruzioni di Tiresia con un remo sulla spalla. Quando raggiunse la Tesprozia, un contadino gli gridò: «Che fai con un ventilabro sulla spalla in primavera?» Odisseo allora sacrificò un ariete, un toro e un cinghiale a Posidone e fu perdonato. Poiché non gli era ancora concesso di tornare a Itaca, sposò Callidice, regina dei Tesprozzi, e guidò il suo esercito in una guerra contro i Brigidi sotto la protezione di Ares. Ma Apollo invocò una tregua. 9 anni dopo, Polipete, figlio di Odisseo e di Callidice, successe al padre sul trono dei Tesprozzi e Odisseo ritornò a Itaca, dove Penelope regnava in nome del figlioletto Poliportide. Telemaco era stato esiliato a Cefallenia, poiché un oracolo aveva predetto: «Odisseo sarai ucciso dal tuo stesso figlio». A Itaca la morte venne a Odisseo dal mare, così come Tiresia aveva previsto. Telegono, il figlio che egli aveva avuto da Circe, salpato in cerca del padre, fece una scorreria a Itaca, credendo che fosse l'isola di Corcira, e Odisseo si preparò a respingere l'attacco. Telegono lo uccise sulla riva del mare, e l'arma fatale fu una lancia che aveva per punta l'aculeo di una razza. Trascorso in esilio l'anno prescritto dalla legge, Telegono sposò Penelope. Telemaco sposò allora Circe, e i due rami della famiglia si unirono così di più stretti legami. Taluni negano che Penelope rimanesse fedele a Odisseo. L'accusano di essersi unita ad Anfinomo di Dulichio, oppure con ciascuno dei pretendenti a turno, e dicono che il frutto di questa unione fu il mostruoso dio Pan. Al vederlo Odisseo sarebbe fuggito in Etolia per la vergogna, scacciando Penelope, che ritornò dal padre suo Icario a Mantinea, dove ancora oggi si mostra la sua tomba. Altri affermano che Penelope generò Pan da Ermete e che Odisseo sposò una principessa etolica, la figlia del re Toante. Ebbe da lei Leontofono, il più giovane dei suoi figli, e morì serenamente a tarda età. L'eccidio dei pretendenti appartiene all'allegoria di Ulisse ed è un'altra prova del rifiuto alla morte opposto dal re sacro al termine del suo regno. Egli interviene dunque nella gara di tiro all'arco che dovrebbe stabilire chi è il più degno alla successione e uccide tutti i candidati. Una delle prove cui si sottoponevano in origine i candidati al trono consisteva nello scoccare una freccia in un anello posto sulla testa di un bambino. Dai versi dell'Odissea non trapela mai il sospetto che Penelope fosse infedele al marito durante la sua lunga assenza, benché nel canto 18, versi 281-83, pare che essa voglia sedurre i pretendenti con civetteria, estorce loro dei doni e mostra una palese preferenza per Anfinomo di Dulichio. Odisseo non si fida troppo di lei, poiché le rivela la sua identità soltanto dopo aver ucciso tutti gli avversari sino all'ultimo. L'arcaica leggenda che fa di Pane il figlio di Penelope e di Ermete, oppure di Penelope e di tutti i pretendenti, si riferisce forse alla dea Penelope e alle sue primitive orgie primaverili. Inoltre, il fatto che essa cornificasse Odisseo e ritornasse in seguito a Mantinea appare come una giusta punizione per l'insolenza di Odisseo che la costrinse a seguirlo a Itaca, contrariamente all'antica usanza matriarcale. Ma Nausicaa, l'autrice, racconta la storia a modo suo, assolvendo Penelope da ogni colpa. Essa accetta il sistema patriarcale nel quale è nata e preferisce l'amabile ironia all'aspra satira della Iliade. La dea è ora sostituita dall'onnipotente Zeus, i re non vengono più sacrificati in suo onore e l'epoca dei miti è finita. Benissimo. Pare che ciò non turbi affatto Nausicaa, purché essa possa sempre scherzare e giocare alla palla con le sue ancelle più compiacenti, tirare i capelli a quelle che le sono antipatiche, ascoltare le favole della vecchia Euriclea e piegare ai suoi capricci il padre Alcino. L'Odissea così lascia in secondo piano Laerte, Odisseo e Telemaco, una triade patriarcale protetta da Atena nata da Zeus, mentre le ancelle impiccate tutte in fila per la loro intemperanza dimostrano che Nausicaa disapprova la promiscuità preconiugale. La fine di Odisseo è stata narrata da altri mitografi. Odisseo è esiliato nella Tesprozia e Telemaco a Cefallenia, mentre Penelope rimane serenamente nel proprio palazzo governando in nome del figlio Poliportide. Bisogna tuttavia che la profezia di Tiresia si avveri. Odisseo non morrà vecchio in tarda età, come il garrulo e saggio Nestore. La morte lo colpirà seguendo gli schemi della tradizione che egli avrebbe voluto abolire. Il fanciullo dell'anno nuovo, a cavallo di un delfino, lo trafiggerà con un aculeo di razza. Una sorte simile toccò a Catreo di Rodi. Suo figlio Altemene lo colpì involontariamente con una lancia sulla riva del mare. Gli aculei di razza, usati anche dai polinesiani, provocano ferite infiammatorie che greci e latini ritenevano incurabili. La razza, Trigon pastinaca, è pesce assai comune nel Mediterraneo. Si dice che Eracle fosse stato ferito da una razza. Le nozze di Telemaco con Circe e di Telegono con Penelope appaiono a prima vista davvero sorprendenti. Sir James Frazer mette in rapporto queste unioni apparentemente incestuose con il costume delle società poligamiche, nelle quali il re ereditava tutte le concubine del padre, salvo la propria madre. Ma la poligamia non fu mai praticata in Grecia, e né Telemaco, né Telegono, né Edipo, un fanciullo dell'anno nuovo nato da un'onda rigonfia che uccise suo padre e sposò sua madre Giocasta, né il figlio di Eracle, Illo, che sposò la sua matrigna Iole, erano poligami. Ciascuno di essi si limitò a uccidere il re dell'anno vecchio secondo l'antica usanza mitica, succedendogli poi sul trono come figlio. Ciò spiega perché Telemaco si preparasse a scoccare una freccia, ma desistette al vedere il cipiglio di Odisseo. Questo è un episodio della leggenda di Ulisse, sfuggito al vaglio della critica e rimasto nell'Odissea. Chissà se i capelli rossi di Odisseo hanno un significato mitico oppure sono una caratteristica personale senza importanza, come le sue gambe corte che Nausicaa notò forse in qualche avventuriero di passaggio in Sicilia, rammentandosene poi nel tratteggiare la figura di Odisseo. Autolico, è vero, gli diede il nome di Iroso, e i capelli rossi sono tradizionalmente associati a un brutto carattere. Ma sotto un falso aspetto di poema epico, l'Odissea è il primo romanzo greco, e dunque del tutto impreciso per quanto riguarda i miti. In un altro romanzo, La figlia di Omero, ho lumeggiato in quali circostanze l'Odissea fu forse composta.